Black Meeting è l'incontro delle controculture digitali che parlano italiano e fondamentalmente è un momento di scambio di saperi, conoscenze, hacking e rimontaggio e riutilizzo della tecnologia per scopi sociali e politici di liberazione, quindi di solidarietà tra le persone. Black Meeting inizia la sua storia nel 98, proprio con una brutta storia in realtà di repressione, repressione contro la telematica su persone che si organizzavano dal basso e conducevano insieme all'associazione Peace Link rapporti di conoscenza e solidarietà con l'est Europa, tra l'altro Serbia, Bosnia e in quel periodo la guerra che c'era su Sarajevo. Hack Meeting nasce per permettere, per continuare a portare avanti un filo di comunicazione e di invenzione o anche e di possibilità sulle tecnologie per i popoli, per le persone che si organizzano dal basso. Quindi nel 98 è iniziato il primo appuntamento e ora siamo al 24esimo e continuiamo a avere bisogno l'una dell'altro, gli uni degli altri, perché comunque le tecnologie e l'informatica sono una parte anche troppo invadente negli ultimi 20 anni della nostra vita e quindi saperle conoscere, capire come interagiscono con noi e noi come possiamo modificarle piuttosto che essere solo strumentalizzati da aziende è importante, continua a essere importante, anzi forse di più. È un incontro in cui non ci sono organizzatori e partecipanti, ma sono tutti partecipanti proprio considerati dal basso, no? Sì, Hack Meeting è autogestito, quindi è proprio un raduno di un noi che si adopera per passare bene quei 3 giorni e proprio appunto per insegnarsi cose a vicenda, perché comunque è vero, uno può leggere il manuale, ma lo scambio che puoi fare di persona è senza prezzo, ecco, impagabile. E ci sono vari ruoli che abbiamo bisogno tutti per portare avanti l'evento, quindi chi fa accoglienza all'ingresso, chi cucina, chi allestisce le sale, fa il madrinaggio, quindi aiuta a stare dentro nei tempi, a chi parla e aiuta un po' sulle domande, poi il bar, l'info point, la gestione della coda insomma delle chiamate, dei turni per il mangiare. E quindi sì, è un evento in cui si arriva e si partecipa perché si è all'interno dell'evento, cioè ci si responsabilizza ma anche si è parte proprio di ciò, non c'è una divisione. Prima ricordavi che le tecnologie sono sempre più invasive, almeno l'utilizzo che ne fanno grandi aziende nei nostri confronti sono sempre più invasive. Quali sono magari alcuni filoni, alcuni temi che verranno affrontati in queste 3 giornate? Abbiamo un po' di smontaggio di tecnologie altrui e quindi anche di riutilizzo, quindi dalla GSM che sono la telefonia ai social network che non sono sicuramente in mano nostra, ma anche al rimontaggio appunto, quindi come ci sono invece mezzi di comunicazione federati. E poi ci sono tecnologie che se non le sviluppassimo noi e se non ci fossero queste comunità, non solo qua che parla in italiano ma nel mondo, non verrebbero fatte a scopi commerciali. E quindi ci sono cose sulle reti mesh, oppure su social network federati, peer-to-peer, licenze che ripermettono il riutilizzo e che non siano brevetti. Abbiamo corsi base che anche insomma partire dal liberare il tuo computer, quindi uscire dal paraocchi che è utilizzare comunque Windows e Macintosh e passare a qualcosa che ti permette di studiarlo come le varie distribuzioni Linux. Quindi insomma tutto all'insegna della consapevolezza degli strumenti che usiamo. Sì, ci saranno anche momenti di svago, perché comunque anche l'hacking è attitudine e curiosità e ci sono momenti in cui, non so, ci si condivide complicati trucchi su come si è creato dei giochi o si è risolto dei giochi o elaborate lucubrazioni sull'uso dei linguaggi di programmazione, però sì, è tutto approfondimento sulla tecnologia. Dove trovare il programma e tutti i riferimenti? Lo trovate su www.hackmeeting.com. org, e dove non c'è solo il nostro evento ma anche le altre che succedono nel mondo, e da lì c'è il link per quello di quest'anno.